siamo grandi io e te. Sempre uguali dal 63, che non ci tiravamo indietro mai, a pranzo e cena ci piacevano i guai. Pensavamo alle donne in maniera gentile, parlavamo per ore senza mai agire, eravamo bravi a organizzare le feste, a far io con le donne degli altri. Del 63, che non ci tiravamo indietro mai, e nella vita ci piacevano i guai. Sempre vivi io e te, i sognatori del 63. Vita vera ci siamo trovati con i problemi di ogni giorno e con la rabbia che mi porti intorno. Siamo grandi io e te, questo del 63, che non ci tiravamo indietro mai, e nella vita ci piacevano i guai. Sempre vivi io e te, i sognatori del 63. Adesso la vita ci ha rifatto incontrare, ma non possiamo più sbagliare. La fortuna con noi è stata amara e gentile, ci ha separato e ci ha fatto riunire.